Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:08 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero e oggi non ci riposeremo affatto, nel senso io, perché la puntata sarà dedicata ai viaggi. Viaggi in tutti i sensi, viaggeremo con la fantasia sicuramente, viaggeremo nel vero senso della parola, perché molti partiranno per le vacanze, andranno da una parte o dall'altra, altri non hanno deciso, malgrado però così abbiano il desiderio di farlo, quindi magari decideranno all'ultimo momento. Viaggeremo anche in modo virtuale, useremo la rete infatti per i nostri viaggi, cercheremo di capire come si viaggia e si naviga in rete e come si può usare la rete per viaggiare sul serio. E visto che parliamo di navigare, dovremmo riuscire, non è detto, a metterci in contatto con Andrea Livio, che sta per iniziare, anzi è partito, dovrebbe essere su una nave cargo in questo momento, è partito per un tour del mondo, un viaggio intorno al mondo con una moto da solo, per cui insomma ha deciso qualche settimana fa Andrea di così intraprendere questo viaggio. Ovviamente internet poi riporta foto e racconti e vedremo come andrà a finire. Il viaggio partirà proprio in questi giorni, appena la nave attraccherà da qualche parte, non so dov'è, ma non riusciamo a contattarlo in questo momento. Ci riusciremo, speriamo, nel corso della puntata. E poi come sempre oggi avremo molti premi per voi. Innanzitutto il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La soluzione può essere una notizia della settimana oppure un personaggio, e per arrivare alla soluzione dovrete ascoltare gli indizi musicali che vi proporrò. Ma non solo questo, alle 12:15 infatti vi regaleremo delle esperienze insieme a Smart Box, per voi quindi la possibilità di portarvi a casa appunto esperienze. Dovrete così raccontarmi i vostri sogni, cercare di farmi capire quali sono i vostri desideri e se il vostro desiderio corrisponde a quello che io sto per regalarvi, lo porterete a casa e quindi vi regalerete insomma una bella esperienza in questo senso. Il numero verde per prenotarvi, visto che dovete farlo e potete farlo già da adesso, 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, e per cominciare ovviamente Lucio Battisti. Dolcemente viaggiare. Parliamo di viaggi oggi nel riposo del guerriero. Intanto Marco Montemagno, ciao, ben arrivato, buona domenica. Ciao Ste, buongiorno a tutti. Allora Marco è in onda con me in questo momento, non è al telefono, imprenditore del web, poi conduttore di un programma su Sky TG24. Ok. Giusto? Se... No, dico un programma perché io mi ricordo sempre Io Reporter, ma il vecchio nome. No, Io Reporter. Ah, giusto. Sì. Qual era il prima si chiamava nome? Reporter diffuso, un nome peggio dell'altro. Non è questo. Intanto benvenuto e ben svegliato, se ci riesci. Chiaramente la domenica so che è sempre un problema per chi viaggia come te, che sei sempre in movimento. Però il web aiuta anche in questo. Perché? A trovare, almeno ho trovato la sede facilmente con Google Maps, se no non ci sarebbe arrivato. Allora, tu viaggi in due modi diversi. Uno, viaggi fisicamente, perché sei sempre spessissimo in giro per l'Italia e per il mondo, e poi viaggi per il web perché il tuo mestiere ti porta ovviamente, certo, a farlo. Allora io volevo cominciare da qua. Noi conosciamo la rete in qualche modo, insomma io molto meno di te, però almeno quando accendo un computer so cosa voglio fare e so dove andare, so cosa andare a cercare soprattutto. Molti dei nostri ascoltatori regaleranno e molti invece riceveranno, e a questi che mi rivolgo, in regalo un computer, soprattutto i netbook, che ormai sono questi micro computer, direi così, sono molto piccoli, molto comodi, già dotati di tutto, quindi collegamento in tutti i modi possibili, certo, per non entrare nei dettagli, addirittura addirittura webcam per essere ripresi per le famose chat con tanto di video. Li riceveranno in regalo, magari qualcuno se lo regalerà, e poi una volta acceso cosa ci potranno fare? Da dove partono? Cosa fanno? Ma allora, dipende sempre, io partirei dalla passione e dalle persone. Questo è il mio punto di partenza. La tua passione è quella che stabilisce il sito da cui vuoi partire. Quindi a parte che normalmente tu apri, clicchi sulla chiocciolina, sulla E o su quello che è il browser, il software per navigare, ti si apre sta pagina, di solito Google, che quindi è un motore di ricerca, e lì inserisci quello che ti piace. Oggi come oggi Google è il database della conoscenza, quindi tu trovi qualunque cosa. Ecco, allora, ecco, apriamo una parentesi, sì, in questo senso. A me viene in mente un po' come l'iPhone, che è stata una gran moda. Poi adesso esistono anche altri telefoni, ma sarà un'altra puntata. E il concetto è questo: moltissimi, fin troppi, l'hanno comprato all'uscita semplicemente perché era di moda. Quindi quando tu dici cosa ci posso fare e tu gli dici le tue passioni, ma uno non sapeva neanche, certo, quali potessero essere le proprie passioni in quel momento, infatti non l'hanno sfruttato minimamente, forse hanno imparato a sfruttarlo nel corso del tempo. Per cui uno magari dice guarda, sì, il PC ce l'hanno tutti, perché quella poi è la chiave, no? La connessione a internet ce l'hanno tutti, io no, io adesso la voglio e poi cosa ci faccio? Ma normalmente però parti da un'esigenza molto pratica, cioè o una passione, se ti piace, non so, la magia, ok, parti dalla magia e cerchi, esatto, cerchi Silvan, non so, c'è ancora Silvan. La puntata del 26 esatto. dicembre del Riposo del Guerriero sarà dedicata all'illusionismo. Perfetto, quindi diciamo, parti, non so, Darren Brown, l'illusionista, quello britannico, parti con qualcuno. Poi, oppure parti da un'esigenza, quindi dici, ho bisogno di prenotare un viaggio, e allora cerchi, non so, viaggio a Bali, e digiti questo tipo di ricerca e hai una serie di risultati. Questa è la parte più facile. Oppure puoi dire no, io cerco un viaggio però attraverso i consigli dei miei amici. Allora magari mi registro su Facebook, che in questo momento fa 18 milioni di persone registrate solo in Italia, e a quel punto cerco tramite i miei amici, scriverò qualcuno ha mai viaggiato a Bali e gli altri e lì è finita la tua vita, però, e lì entri in un loop senza fine da cui non uscirai mai più. Quindi parti o da una passione o da un'esigenza pratica. Ecco, quindi prima di accendere il PC dovete così valutare la vostra anima qual è, avere un desiderio, e poi da lì, se no, se l'accendete senza desideri sarà difficile partire da qualcosa. Un attimo solo, Marco Montemagno, voglio ricordare innanzitutto gli ascoltatori, se avete qualche curiosità o domande, come sempre, o commenti, il numero per gli SMS 349 238 6666, e adesso gli aggiornamenti sul traffico. Strade in diretta. Traffico un po' intenso sulla 8 dei Laghi e sulla 14 Adriatica verso i poli fieristici di Milano e Bologna, dove ricordiamo oggi è l'ultimo giorno rispettivamente della Fiera dell'Artigianato e del Motor Show. A Milano città possibili difficoltà di circolazione in centro per una manifestazione tra Via Larga e Via dell'Arcivescovado. Chiusa poi al traffico Piazza Fontana questo pomeriggio dalle 14.30 per la commemorazione del 41esimo anniversario della strage. Infine prudenza per un po' di nebbia che riduce la visibilità sugli Appennini tra Emilia e Toscana sull'Autosole. È tutto, a più tardi. Il riposo del guerriero. Abbiamo acceso il nostro computer, dobbiamo cominciare questo viaggio. Viaggio tra i desideri, no? Come hai detto, Marco, prima, ecco, desideri, tra le passioni. Sì. E poi viaggio vero e proprio. Lorenzo Bruffani, buona domenica. Ciao, buongiorno, buongiorno a voi. Lorenzo è responsabile della community di viaggiatori in Italia, TripAdvisor, che è un sito molto conosciuto in tutto il mondo. Quanti sono ormai gli iscritti a TripAdvisor, Lorenzo? Beh, a livello mondiale abbiamo 20 milioni di iscritti e in Italia sono circa un paio di milioni. Senti, allora io comincio subito con questo. Parlando di TripAdvisor, proprio, ma così lo citavo qualche settimana fa nel Riposo del Guerriero, un'ascoltatrice ha scritto una mail dicendo ah, io dissento assolutamente da lei, perché si sa benissimo, questo diceva la mail, che TripAdvisor in realtà sono gli stessi alberghi che mettono un commento positivo su se stessi. Anche io ho replicato, ma la replica forse più interessante è quella che ci puoi dare tu, Lorenzo, a questa domanda. Ma sai, internet giustamente solleva sempre grandi dibattiti. Sicuramente è vero l'opposto, cioè sono gli stessi consumatori, i viaggiatori che mettono le recensioni quando vanno a un viaggio. Quindi TripAdvisor, la particolarità di TripAdvisor è un grande condominio, no? Tu vai in un viaggio e quando ritorni puoi far sapere ai tuoi amici la tua esperienza, può essere stata positiva, può essere stata negativa, e quindi questa è la grande differenza. Non ti vendi il viaggio, ma trovi consigli gratuiti tra viaggiatori. Ecco Lorenzo, ma come posso essere certo che appunto i commenti non arrivino proprio da quell'albergo o da quel ristorante? Perché c'è un team di TripAdvisor a livello mondiale che cerca in qualche modo sempre di verificare che le recensioni siano fatte effettivamente dai viaggiatori. E poi noi stessi, se abbiamo qualche dubbio, possiamo mandare una segnalazione. Quindi siamo noi stessi controllori e controllati. Quindi possiamo mandare una mail e segnalare che magari quella recensione deve essere verificata. Quindi ci sono vari sistemi proprio di persone che lavorano dal punto di vista delle carte di credito, della frode, che segnalano se ci sono qualcosa. Considera che ogni 3 secondi c'è qualcuno in uno dei 25 siti di TripAdvisor che mette una recensione, quindi stiamo parlando di una montagna impressionante, 40 milioni di visite al mese, quindi è veramente un qualcosa di un fenomeno mondiale. Beh, sono finiti anche gli indirizzi web, quindi questo già ci dice qualcosa. Allora, Lorenzo, gli italiani come si comportano in questo senso? Si fidano oppure scrivono di più rispetto a quello che leggono? Non lo so. In generale hai ragione, sì, diciamo che gli italiani sono arrivati un pochino conosco gli italiani per ultimi, quindi TripAdvisor è arrivato in Italia nel 2008 e quindi gli italiani, quelli diciamo che parlano l'italiano, sì, l'hanno cominciato a conoscere solo nel 2008. Altre persone che invece erano già un pochino più smaliziate sulla rete, che parlavano l'inglese, TripAdvisor nasce nel 2000 in Inghilterra. La crescita ci dice che gli italiani in media sono anche abbastanza chiacchieroni, tra virgolette, cioè oltre a leggere le recensioni amano anche in qualche modo scrivere e scambiarsi questo tipo di consigli. E prima ascoltavo appunto, prima di essere collegato, quando Marco diceva giustamente il grande boom di Facebook, c'è un'applicazione che si chiama Trip Friends che proprio incrocia Facebook e TripAdvisor, quindi tu tramite Facebook puoi chiedere ai tuoi amici dove loro sono stati e attraverso TripAdvisor lui ti identifica tra i tuoi amici di Facebook quelli che magari sono stati a Madrid, e quindi tu con una semplice mail puoi già chiedere a loro dove posso andare a Madrid. Quindi sempre di più si va verso questo incrocio tra le community di viaggio e i social network. In questo momento poi il vantaggio penso che sia anche, no, il problema che si sollevava prima, dove dici come faccio a sapere se una persona ha messo un commento e sì, lui non è lui, è l'albergatore, esatto, che è di nascosto. Invece il problema lo risolvi a monte, perché se io per mettere un commento devo collegarmi al mio account su Facebook, a quel punto la mia identità è pubblica, non è più segreta, e quindi in questo modo tolgo il problema dell'anonimato. C'era questo servizio, no? Chat Roulette, dove tu guardavi questa webcam in tempo reale, non funzionava, no. E infatti se l'avessero collegata con Facebook la gente non si sarebbe tirata giù i pantaloni nei 2 minuti come succedeva. Direi e, no. E quindi l'identità la risolve. Ecco, così. Quella è un'altra delle passioni che così potete soddisfare anche attraverso la rete, sarà un capitolo però a parte del riposo del guerriero. Lorenzo, un'ultima domanda volevo farti: voi avete una traccia di quello che stanno cercando gli italiani per farsi un viaggio in questo inverno, magari a Capodanno, cioè tra le mete così più ricercate? Sì, noi facciamo spessissimo dei sondaggi online gratuiti, quindi chiediamo proprio ai nostri amici dove vogliono andare e quali sono le mete magari più trendy per il Capodanno. Ecco, scusami, sottolineo, voi non vendete viaggi, lo dico agli ascoltatori, magari non è chiaro, ecco, non assolutamente, ma semplicemente no, infatti, pubblicate commenti sui viaggi che vengono fatti. Chiusa parentesi, andiamo avanti. Assolutamente, infatti il risultato della ricerca sono le destinazioni più votate, esatto, più scelte dai navigatori, e quindi non c'è assolutamente traccia di albergatori che possano in qualche modo identificare e farsi della pubblicità. E tra le destinazioni che ci sono state votate, quindi a livello europeo dagli italiani, Berlino sembra essere un po' la destinazione anche quest'anno tra quelle più alla moda, quindi fare il Capodanno alla Porta di Brandeburgo, sembra essere un po' la destinazione migliore. Le famiglie invece, ovviamente, Disneyland a Parigi, quindi può essere la classica destinazione, ma ci sono anche nuove invece città, quindi Budapest in Ungheria che si è piazzata al terzo posto, Londra che va sempre di moda, quindi la London Eye, la grande ruota panoramica magari per vedersi i fuochi d'artificio, ma ci sono anche per tutti i gusti, c'è chi preferisce la Croazia, Dubrovnik, perché magari è più bello andarci d'inverno e non nell'affollata d'estate, oppure anche in Scozia al castello di Edimburgo. Mi piace che si rimane in Europa fondamentalmente, insomma non ci si allontana dall'altra parte più di tanto, eh? Quest'anno noi abbiamo registrato, ripeto, TripAdvisor non è un istituto di ricerca, ma semplicemente, come dire, un grande orecchio sui trend della rete. Il medio raggio, l'Europa sembra crescere abbastanza di più, però c'è un'altra indagine che abbiamo fatto precedentemente, una voglia di ripartire rispetto all'anno scorso, quindi non sono in grado di darti dei numeri perché però ho capito che malgrado la crisi la gente ha voglia di viaggiare, forse ha voglia di svagarsi, punto. Forse è per questo che preferisce investire quel poco denaro che ha in un viaggio. Sicuramente sì, è un elemento molto importante proprio dopo un anno magari difficile, anche poco, ma si preferisce viaggiare. Sicuramente. Grazie Lorenzo Bruffani, buona domenica. Grazie a voi. Grazie ancora, vi ricordo TripAdvisor, e se dovete mettervi per caso in macchina per andare da qualche parte, mi raccomando, non fate come Furio. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Ma cagare. La risposta più ovvia. Guardate Carlo Verdone, sicuramente. C'è. Allora, tu sei così, ti informi così tanto prima di partire? Cosa fai? No, assolutamente. Io appunto penso che si passa sempre più dalle persone, no? Dai tuoi amici. E, ricollegandoci a quello che diceva Lorenzo prima, di TripAdvisor, penso che questo trend fortissimo sia quello che si chiama il social. Oggi tutti parlano di social, e di recente c'è stato un evento dove John Doerr, che è considerato il Michael Jordan degli investitori americani, cioè quello che ha investito su Google, ha investito su Facebook, ha investito dappertutto, quello che ci ha creduto di più, ci ha creduto di più, e quindi è quello che poi individua, no, quali sono i trend futuri, diceva: d'ora in poi tutte le aziende faranno qualche cosa di social, cioè dove noi utenti parliamo tra di noi per qualunque decisione. E sui viaggi c'è questo sito che va fortissimo. L'ultima volta in Silicon Valley mi parlava solo di questo Airbnb, scritto Airbnb, dove in pratica loro fanno una cosa molto interessante. Ti dicono: se hai una stanza vuota, la puoi affittare tramite il sito. Noi ci facciamo carico di tutti i pagamenti, le recensioni delle persone che sono state prime, tutto quanto, e tu puoi viaggiare tramite le persone, le case delle persone, quindi un modo di viaggiare completamente diverso, una specie di eBay dei viaggi, però garantito da questa piattaforma. Molto interessante, perché cambia la modalità di viaggio. Non parto da una destinazione o da un albergo, ma parto da un'esperienza di una persona per viaggiare tramite poi quelli che sono i suoi suggerimenti e i suoi aiuti. È come se io, se tu Stefano affittassi una casa o una stanza della tua casa, e io a quel punto tramite te conosco la città di Milano, farà un'esperienza pazzesca. Ecco, ovviamente. Beh, quindi posso partire da entrambe le cose, perché comunque sia tu puoi anche decidere, credo, da quello che ho capito. Certo. Se io decidessi di andare per esempio a New York, posso cercare un appartamento a New York. Perfetto. In affitto? Allora, insomma, tu sì. Puoi fare in tanti modi in questo modo. New York puoi dire: parto e faccio una ricerca, non so, da Google, parto e vado a vedere le recensioni su TripAdvisor su New York, oppure cerco il viaggio su Expedia, tutti questi siti, vola gratis. Questo è per la parte, no, di acquisto di prezzo. Poi per però se voglio fare un'esperienza potrei considerare di scegliere un sito come Airbnb, dove io a quel punto a New York individuo delle persone che mettono a disposizione una stanza, a volte ci sono stanze di castelli, ci sono posti incredibili, e passo da loro per fare la mia esperienza di viaggio, un modo di viaggiare social che va molto di moda. Ecco, quindi questo, insomma, la rete, come sempre ormai con i viaggi, ha a che fare in due sensi, perché si viaggia attraverso la rete in modo virtuale e si viaggia invece in modo assolutamente reale. Io adesso al telefono ho Fulvio Cerutti. Buona giornata, Fulvio. Buongiorno a voi. Ecco, tu sei il ideatore e curatore della Zampa.it, ci siamo già sentiti, perché viaggiare a volte si hanno i figli al seguito, però a volte si hanno dei figli un po' più difficili da seguire, perché hanno quattro zampe e sono più impegnativi, sono gli animali domestici. Sempre più spesso, sì, ecco, assolutamente. Allora, hai qualche consiglio da darci per chi volesse viaggiare con i cani e i gatti? Sì, guarda, ci sono due tipologie di consigli che mi sento dare, sì. Quelli concreti, pratici per viaggiare, ma anche quelli comportamentali. Quelli pratici per viaggiare... Aspetta. Allora, due consigli che adesso magari gli amici che hanno, appunto gli ascoltatori che dovessero avere animali, possono segnarsi. Ci interrompiamo per un attimo perché ci sono i comunicati e poi torniamo a parlare con Fulvio Cerutti. Radio 24 lo dà per scontato. Chi acquista libri sulla feltrinelli.it con una spesa minima di 49 euro avrà uno sconto di 5 euro e i costi di spedizione gratuiti. Averlo è facile, basta inserire nel carrello il codice LaFeltrinelli24. Lo sconto è cumulabile con quelli presenti sul sito Radio 24 e LaFeltrinelli.it. Accoppiata, scontata. Ugo, ma te l'aspettavi un regalo così? Con Sky Christmas Box hai 10 canali di cinema in HD. Ti vedi è Christmas Carol, Alice in Wonderland in HD e per la prima volta anche in 3D. Altro che Alice, questo Natale è Ugo nel Paese delle Meraviglie. Un Natale così non si era mai visto. Regalati Sky e Sky ti regala il cinema a soli 29 euro al mese. Chiama 02 70 70 o vai nei punti vendita. Info su sky.it. Sky, liberi di... Vuoi tu prendere in sposo il cui presente Paolo nella gioia... Che emozione, mi brucia lo stomaco. Dammi due compresse di digestivo Antonetto. E l'acqua sull'altare? Si masticano. Proprio adesso? Sì. Vi dichiaro marito e moglie. Se talvolta soffrite di bruciori di stomaco causati dall'iperacidità, in farmacia c'è il digestivo Antonetto. Le compresse di digestivo Antonetto combattono il bruciore dando un rapido sollievo. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Il digestivo Antonetto agisce presto. Dal mondo dell'economia aprono in leggero rialzo i mercati finanziari, bene i tecnologici, ma soprattutto Marco ha alzato l'indice e ha fatto un sorriso. Sono queste le azioni che valgono di più, perché la ricerca è il miglior investimento per il futuro. BNL per Teleton, nella lotta contro le malattie genetiche rare. Il 17 e il 18 dicembre ti aspettiamo con un'apertura straordinaria presso le nostre filiali. Versa il tuo contributo. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Con il gioco pubblico lo Stato garantisce sia il divertimento sia le regole, in modo che non si crei l'illusione e il rischio di un facile guadagno. Un gioco infatti diverte se mantiene i requisiti di svago, suggestione e moderazione, come la Lotteria Italia, uno dei giochi più amati dalle famiglie italiane per la sua formula semplice e immediata. Con un biglietto da 5 euro ci si può regalare un sogno da 5 milioni e concorrere ai premi giornalieri e settimanali chiamando da casa. Per telefonare occorre essere maggiorenni. Giochiamo pure in famiglia, ma ricordiamoci sempre di tutelare i minori. Annie Lennox e Christmas Cornucopia. L'album per le tue feste. Nei migliori negozi di dischi. Gamma Citroën approvata a quattro ruote. Euro 5, ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroën, valutazione del 10% in più sulla quotazione 4 ruote. E adesso il tuo usato vale il 10% in più. Se ne è parlato così tanto che abbiamo deciso di prolungare l'operazione approvata a 4 ruote anche per il mese di dicembre. Scopri i 18 modelli della gamma Citroën approvata a 4 ruote. Prezzi bloccati fino al 31 dicembre. Info su citroen.it. Le competenze sono la forza del lavoro e il segreto per una rapida ripresa. Forte è il Fondo Nazionale per la Formazione Continua, aperto alle imprese di tutti i settori economici, promosso da Confcommercio, Confetra, CGL, CISL, UIL. 41 milioni di euro sono ora disponibili per il finanziamento di piani formativi delle imprese già aderenti o che aderiscono entro il 20 dicembre. L'adesione a Forte è gratuita e la formazione non ha costi per l'azienda né per i lavoratori. www.fondoforte.it. Scopri la potenza della formazione. Ogni volta che passi dal check-in, porti con te innovazione, dinamismo, creatività, know-how? Bene, è il tuo momento. Decolla l'ottava edizione del China Trader Award, il prestigioso premio di Cathay Pacific, dedicato alle imprese italiane che si sono distinte nell'operare con Hong Kong e la Cina. La premiazione avverrà a febbraio a Milano, durante una serata di gala alla Fondazione Arnaldo Pomodoro. Iscrivi la tua azienda al China Trader Award 2010 entro il 31 dicembre su cathaypacific.it. State ascoltando un programma offerto da Soluzioni Magazzino. Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Il riposo del guerriero. 10:33 minuti, riposo del guerriero, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Parliamo di viaggi oggi, ne parliamo da tanti punti di vista. Adesso al telefono c'è Fulvio Cerutti, che è l'ideatore e curatore di lazampa.it, è come la stampa, però è dedicata agli animali, ecco, diciamo, un quotidiano. È online, è un sito online che trovate andando anche al sito della stampa direttamente, poi c'è il link, ma non solo, c'è anche lazampa.it. Punto. E Lorenzo, ci dicevi due modi per viaggiare con i nostri amici animali. Sì, sostanzialmente i consigli che mi vengono a dare sono questi. Il primo, se parliamo dell'automobile, che è quel mezzo più utilizzato, anche perché gli altri mezzi tipo le navi, gli aerei e i treni hanno ognuna delle proprie regole, quindi consiglio sempre di sentire le varie compagnie per avere informazioni specifiche. Per quanto riguarda l'auto, la cosa più semplice è ricordare che è previsto il trasporto libero dell'animale, l'importante è che non costituisca intralcio pericolo per il conducente. Detto in altri termini, deve stare sul sedile posteriore. Se sono più animali o un animale di grossa taglia, deve essere alloggiato nel vano posteriore, diviso da un'apposita rete, e essere trasportato in appositi contenitori per tanti piccoli animali. Questo, diciamo, è il consiglio pratico per viaggiare. Il consiglio comportamentale invece è una cosa che spesso talvolta non si ricorda, cioè il fatto che bisogna abituare l'animale ai viaggi. Talvolta infatti si dice: ah, mio animale, mio cane soffre il viaggio. Sì, però può anche capitare che le uniche volte in cui l'animale sale in macchina è quando per esempio viene portato al veterinario. Quindi lui associa, certo, il viaggio in auto al veterinario. Invece, banalmente, se lo si portasse qualche volta anche solo per un chilometro in macchina e lo si porta in un parco, l'animale associa una cosa bella, perché poi va a giocare. Ecco, questa è una cosa che devo dire che faranno in pochissimi, perché di solito cerchi il parco vicino a casa e ci vai a piedi, certo non usi la macchina per... E invece in quel caso... Sì, lo dico, lo ricordo, perché è stato un errore che anch'io all'inizio, 17 anni fa, ho fatto, perché io portavo tranquillamente a passeggio il mio cane, ovviamente a piedi, e poi però magari il veterinario, che era un po' fuori zona, usavi l'auto, ogni volta che salivo in macchina tremava e non capivo. Dopo ho chiesto un veterinario comportamentale, mi ha detto: guarda, questo è il problema. Infatti, senti, ma poi... Scusami, è vero che quando si ha a che fare con un cane o con, in generale con un animale, è come avere a che fare con un bambino sempre di 3 anni, più o meno, come età? Tendenzialmente sì, l'importante, l'altro giorno ne parlavo durante un'intervista che ho fatto a Massimo Perla, che è un famoso addestratore di animali, è importante non ragionare e non commettere l'errore di ragionare in forma umana, cioè bisogna sempre ricordarsi che è un animale, quindi bisogna ragionare in termini di capobranco. Banalmente, non so, anche quando ci si avvicina non accarezzarlo, perché non si sa che cosa stia pensando l'animale, quindi magari in quel momento accarezzandoli si dà il via per un attacco, tanto per dirne una. Quindi va bene come ragionamento, che può ragionare in quella maniera, però ricordiamoci sempre di trattarlo come un animale. Se vogliamo tornare ad altri consigli, banalmente sono quelli di portare l'animale a stomaco vuoto per ovvi motivi, tenere il finestrino leggermente aperto, non lasciargli però mettere la testa fuori dalla finestrina, perché sennò poi rischio poi il mio saltava fuori, vedi tu, ecco. Per esempio, un'altra cosa, cercare di fare una pausa ogni 2-3 ore perlomeno, perché ovviamente anche sui bisognini da fare, portarsi sempre una ciotola d'acqua, perché l'animale soffre tantissimo di stare all'interno di un ambiente chiuso, quindi ha molta necessità di bere, di idratarsi. Questi sono sono dei consigli, diciamo, di natura molto pratica. Mi viene da dire invece un consiglio comportamentale per i proprietari. Sì. Ossia, ultimamente abbiamo visto anche il ministro Bambilla che ha proposto questa, ha dato questo invito a togliere il divieto d'accesso nei vari locali, che è una cosa bellissima. Sì, ne parliamo tra pochissimo, fra l'altro, di questo. Ecco. No, dico, vai avanti. Ah, ok. L'altro concetto invece, se vogliamo parlare dopo di quest'altro discorso, l'altro concetto è quello legato alla documentazione. Ricordiamo che dal 2004 per cani, gatti e furetti che vengono trasportati all'estero è obbligatorio il passaporto comunitario. Il passaporto comunitario che deve riportare il tatuaggio, il microchip, quindi l'animale deve essere registrato in anagrafe canina e possedere una vaccinazione antirabica valida, cioè fatta da meno di un anno ma non da più di 21 giorni. È un passaporto che viene rilasciato dal servizio sanitario ufficiale e comunque maggiori informazioni si possono trovare direttamente sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata a cani e gatti. Grazie, questa è una cosa veramente importante da sapere. Uno parte e dice ma vabbè tanto. Lo stesso errore che avevo fatto io qualche anno fa, cioè parto tranquillo e sereno, poi dico oddio no, la vaccinazione antirabica non l'ho fatta. Vedi che c'è qualcuno che dagli errori impara, meno male, perché onestamente così. Marco, avevi una domanda, una curiosità? Sì, dicevo, sì. Ormai poi, cioè, anche per i cani, il web, no, è diventato un posto di incontro. C'era questo sito, esiste ancora Dogster, era il social network per... c'è sempre social network per i cani. Devo dire che gli amanti degli animali sono molto molto attivi sul web, community fortissimo. Ecco, io spero, intanto ti ringrazio davvero, grazie. Fulvio, e spero che quello che tu abbia detto sia anche servito a far capire quanto sia impegnativo avere un compagno di viaggio come può essere un animale, e quindi invito veramente a non regalare gli animali, i cani ai bambini per Natale, soprattutto se non sono tanto desiderati, ma come se fossero dei giocattoli, perché poi si abbandonano, lo sappiamo già, e ogni Natale però è la stessa cosa, e quindi dobbiamo sempre sottolinearlo. Avere un animale è un grandissimo impegno, per cui quando si decide di tenerlo con sé e fare in modo che si trascorra il resto della vita insieme, insomma, bisogna sapere che cosa si ha preso insieme, si ha una persona, cioè non una persona perché non è da umanizzare come dicevi, però si ha un impegno da amare fino in fondo. Grazie davvero, ciao. Okay, ciao. Ciao Fulvio, ciao, grazie. Lorenzo Contucci. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Lorenzo, responsabile di Io Posso Entrare, è l'altra parte dedicata agli animali. Prima parlavamo appunto di questo fatto, del fatto che gli animali non possono entrare mai da nessuna parte, e invece voi avete un sito dove ci sono gli elenchi dei posti dove invece cani e gatti possono andare, alberghi e ristoranti, vero? Sì, infatti, diciamo che questo sito è nato all'inizio del 2000, perché dopo aver fatto qualche viaggio all'estero, soprattutto in Nord Europa, mi ero accorto che, diciamo, la cultura dell'animale della compagnia era molto diversa rispetto alla nostra, e quindi mi era venuto in mente di costruire qualcosa che potesse essere utile per chi l'animale ce l'ha e deve viaggiare insieme a lui, insomma. Niente, poi dopo abbiamo dovuto, insomma, fare qualche ricerca per vedere cosa c'era già. Esisteva qualcosa a livello cartaceo, tipo elenco del telefono, che però non veniva più pubblicato per vari motivi, e quindi noi, visto che c'era questa nuova piattaforma internet che era esplosa da qualche anno, abbiamo deciso di portare questo elenco su internet e arricchirlo tutti i giorni fino ad arrivare a oggi. Ecco, devo dire che è un elenco importante e fondamentale, appunto, per chi deve portarsi a casa indietro cani e gatti. E tra l'altro voglio anche ricordare che chi avesse un navigatore satellitare Garmin, esatto, può scaricare gratuitamente l'elenco di tutti i ristoranti e gli alberghi che accettano cani e gatti in questo posto. In questo modo, sul navigatore, anche se dovendo magari improvvisare di doversi fermare da qualche parte, è possibile avere subito sotto mano i posti. Esatto, che da circa 3 anni abbiamo questa collaborazione con Garmin, per cui tutto quello che si trova sul sito si trova anche sul navigatore Garmin, scaricando i punti di interesse, sì, relativi appunto agli animali. Ci sono anche numeri di telefono per chiamare prima, se uno lo dà lo stesso navigatore, per poter chiamare prima, per informarsi, insomma, se è aperto il posto, bene, informazioni, certo. Grazie Lorenzo, grazie. Prego. Anche per quello che fai, che è veramente utile, pratico. Lorenzo Contucci, ioposentrare.it, buona domenica. Allora, Marco, prima del prossimo ospite, al quale chiedo di avere un po' di pazienza, e io volevo intanto farti qualche domanda. Per esempio, è possibile eliminare notizie personali che escono sui principali motori di ricerca? Si può fare da soli? Allora, ci sono delle segnalazioni che si possono fare a Google. Ricordo che Google è ad oggi il sito dominante sui motori di ricerca. L'altro aspetto, mio consiglio pratico, spesso quando tu cerchi, se sei un personaggio ad esempio, magari fai una ricerca, il primo risultato è risultato negativo. Allora uno si preoccupa e dice: come faccio a togliere quel risultato negativo? Più che togliere un risultato negativo, si tratta di creare dei contenuti invece positivi, quindi la tua versione dei fatti tipicamente, e fare in modo che questi contenuti appaiano più in alto, siano più visibili rispetto ai contenuti negativi. Di fatto un contenuto negativo, una critica in internet resta, quindi bisogna abituarsi a convivere col fatto che ci sono critiche e ci sono aspetti invece positivi. Poi invece se ci sono estremi legali, a quel punto ci sono le procedure con la polizia postale e via dicendo, ma è un'altra strada. Ecco, anche perché le critiche possono essere anche fatte così solo per cattiveria, non perché si basano, certo, su qualcosa di reale. Però questo è come nella vita di tutti i giorni, no? Internet è uno specchio di quello, sì, che succede. Solo che finché hai il vicino di casa che parla male, certo, di te è una cosa, quando hai invece qualcuno che possa parlare a un immenso certo, pubblico, diventa più importante, pesante. Esatto, ecco. Questo è il motivo per cui è così importante oggi avere una propria casa in internet, quindi un proprio posto, un proprio sito, un proprio blog, quello che volete voi, però il posto dove tu metti i tuoi contenuti, dai la tua versione dei fatti e c'è una presenza anche sui motori, se uno cerca tu ci sei. In questo modo, nel momento in cui ci sono critiche che magari appaiono in modo visibile sui motori, tu comunque hai la tua finestra informativa, e se poi molti siti linkeranno al tuo perché apprezzano quello che dici, probabilmente i tuoi risultati saranno sempre salirà in motori. Classifica, esatto, diciamo così. È vera questa cosa che più della prima, oltre la prima pagina dei risultati di Google non si va, è molto difficile andare sulle pagine seguenti? La mia personalissima esperienza è che oltre i primi 4 risultati tu non vai. O sei nei primi 4 risultati, oh, ciao, o vai a casa a fare la marmellata. Ed è il motivo per cui ci sono degli esperti cosiddetti di SEO. Di recente abbiamo portato a Milano il più grande esperto al mondo, Rand Fishkin, la Bibbia del SEO. Il SEO è l'arte di essere in cima ai motori di ricerca, che spiegava come si fa a stare in cima. Ed è una scienza, illusionismo puro, magia pura. E mica tanto, perché poi lì è verità, sei veramente in cima alla classifica. Ed è molto anche economico, perché se tu sei, penso, un'azienda, se sei in cima ai risultati, la gente ti vede di più, ti clicca, certo, di più, viene più gente sul tuo sito, se più gente viene sul tuo sito guadagni di più perché vendi un prodotto alla pubblicità, quindi oggi ha una rilevanza fondamentale sia per le persone che per le aziende. È una cosa importante. Rispondo anche a un altro ascoltatore che chiede come è possibile ascoltare il podcast del Riposo del Guerriero. Basta andare sul sito podcast e c'è anche il Riposo del Guerriero, dove è possibile poi scegliere il formato per riascoltare la trasmissione. Se avete curiosità o domande, come state facendo, 349-238-6666. Poi vi ricordo numero verde, perché giocheremo sia con gli smart box, vi regalerò esperienze alle 11:15, ho detto 12:15 prima, avevo sbagliato, 11:15 prima del mistero, quindi 800-24-0024. Prima di darvi gli aggiornamenti sul traffico, voglio anche dire che la rete serve a dare informazioni, ad esempio, su quello che sono le tratte che si fanno quotidianamente in strada, per quanto riguarda il traffico, per cui le persone che hanno gli ultimi navigatori satellitari TomTom, ma anche Garmin, cosa fanno? Quando collegano il loro navigatore satellitare a internet, al computer, per poter scaricare tipo gli aggiornamenti e queste cose, comunicano in modo assolutamente anonimo anche tutte le tratte che hanno fatto, quelle stradali, con tanto di orario e di traffico, che velocità, diciamo, di quella tratta, in modo che tutti questi milioni e milioni di dati possano essere elaborati per avere poi in futuro una traccia più corretta del tempo stimato per arrivare da un punto a un altro in base all'orario. Se volete fare gratuitamente e senza avere nessun navigatore satellitare, magari volete prevedere quale sarà la vostra strada migliore e più breve in un determinato orario e periodo, potete collegarvi al sito routes.tomtom.com per crearvi una mappa, diciamo così, delle strade che potrete percorrere, avendo più o meno una stima precisa di quanto tempo impiegherete, proprio in base all'orario e al giorno del vostro viaggio, perché sappiamo che a seconda di queste cose il tempo di percorrenza decisamente cambia. Il Riposo del Guerriero. Eccoci qua, Marco, cosa fai quando devi affrontare un viaggio tu, visto che la rete fa parte della tua vita? Wow, ma dipende dove devo andare, che cosa devo andare a fare. Normalmente io viaggio per lavoro, quindi non è difficilmente un viaggio per vacanza negli ultimi 12 anni, quindi lo chiedo ai nostri telespettatori: cosa fate quando andate in vacanza? Ditevelo, perché non so più cosa voglia dire. Per lavoro invece, diciamo, tutti gli strumenti che posso avere li uso. Faccio un esempio, sì. Oggi un trend molto forte è la geolocalizzazione, parolaccia che vuol dire che se io vado in un posto posso sapere, grazie al mio telefonino, che cosa c'è intorno a me, quali sono i ristoranti interessanti, quali sono gli sconti e via dicendo. Uno dei siti più interessanti oggi, ad esempio, sugli acquisti è questo Groupon, che ha appena rifiutato un'offerta da 6 miliardi di dollari da Google. Cioè Google è arrivato e ha detto: ti diamo 6 miliardi di dollari, e loro hanno detto: no, non è sufficiente. Quindi mi chiedo, non so che quanto ormai oggi sia sufficiente, però ad esempio è un sito di acquisti che in un qualche modo ti dà un affare al giorno e tu valuti se farlo o meno. Questo fenomeno va sempre di più vicino quando viaggi col tema della geolocalizzazione, cioè vado in giro e col mio telefonino so quello che c'è intorno a me di affari o di esperienze. Anche realtà aumentata, no? Realtà aumentata, ecco. Assolutamente, realtà aumentata è un trend fortissimo, cioè il fatto che io dal mio telefonino, quando inquadro qualche cosa, vedo anche delle ulteriori informazioni, delle ulteriori immagini, non so, inquadro il Colosseo e vedo l'articolo di Wikipedia che mi spiega tutta la storia del Colosseo, vedo le immagini caricate dagli autori. Oppure posso vedere anche i negozi, per esempio, certo, presenti da quelle parti, certo, no? Infatti, con tanto di freccia che ti dice: qui trovi un negozio di questo, esatto, e qui trovi un negozio di recente quell'altro. Eric Schmid, che è l'amministratore delegato di Google Mondo, ha dichiarato, collegandoci anche a quello che dicevi prima sulle previsioni, Google ha talmente tanti dati, che è una cosa che spesso si dimentica, ha talmente tanti dati su quello che fanno le persone, che sono in grado di dire, sapendo dove io sono stato e dove vado di solito, sono in grado di prevedere dove andrò. Quindi c'è un'idea di oltre a quello che io faccio, la possibilità sempre di più di farti arrivare direttamente sul tuo telefonino dei suggerimenti su quello che tu potresti fare. Ed è tutto questo è terribile, diciamo, tu lo sai. È da un lato, come dire, agghiacciante, e dall'altro molto interessante, perché si aprono delle opportunità. Sono come suggerimenti di Amazon. Io compro un libro, poi Amazon analizza come mi comporto e dice: ma se ti è piaciuto questo tipo di libro, perché non compri anche quest'altro? Anche questo, certo. Per cui è l'idea di suggerirti di essere al tuo fianco, come mettere il mondo al tuo fianco con tutti i suoi suggerimenti. Tutto si traduce però in denaro alla fine. Tutto serve a alimentare il commercio, fondamentalmente. Dipende. Ma sai, nel momento in cui io ti consiglio delle esperienze interessanti, ti consiglio dei contatti, delle conoscenze o anche la possibilità di apprendere delle informazioni, diventa molto utile. Poi le aziende lo usano per fare business, le istituzioni per comunicare, certo, con i cittadini. Invece il passaparola non si usa più, come scrive un ascoltatore. Sì, assolutamente. Se io penso oggi il più grande guru al mondo di marketing, che si chiama Seth Godin, quello che ha scritto Permission Marketing, cioè tutti i grandi testi, un po' di tempo fa è uscito con un libro che si chiamava Tribe, le tribù, e la sua teoria è molto semplice. Tu, per far girare un'informazione, hai bisogno di trovare solamente 1000 fan veri. Quindi io, nel momento in cui sono un artista, sono veri, non virtuali, no, quindi veri. Ma poi ormai virtuale è uguale, per me non esiste più, nel senso che amano veramente quello che fai. Sì, se io sono un fan, sì, della tua trasmissione e l'ascolto sempre, se tu fai qualunque cosa vengo, no? Il fan vero è proprio quello, sì, sfegatato. A quel punto mi bastano 1000 fan. 1000 fan sono quelli, la piccola tribù che riesce però a creare questo passaparola di cui parla il tuo telespettatore, scusami, ormai sono deviato dalla TV. Sei sereno. E a questo punto è la comunità piccola su cui concentrarsi per far girare poi le notizie. Non c'era Chris Anderson, altro guru americano, che diceva: siamo passati da un mercato di massa a una massa di mercati. Quindi io devo concentrarmi sulle nicchie, non devo concentrarmi sul grande pubblico. È per questo che la televisione è così in crisi. Anch'io mi concentro sulle nicchie, perché sono quelle che amo di più, ma da un altro punto di vista. Fabrizio Ardito, buona domenica, grazie, ciao. Buongiorno. Ciao Fabrizio, che ha pubblicato per Giunti un libro straordinario, si intitola Viaggio nell'Italia sotterranea, perché l'Italia ha moltissimi posti che non si vedono perché sono sottoterra, ma che sono straordinariamente ricchi di storia e anche di cose da raccontare. Fabrizio, da dove partiamo? Perché tocchi tutta l'Italia, dal nord al sud. Sì, perché questo, diciamo, l'esistenza di luoghi sotterranei è diffusa un po' in tutta Italia, ovviamente soprattutto nelle città d'arte, nelle città storiche, E i sotterranei sono un mondo un po' curioso, un mondo a parte, e a furia di girarli ho capito che sono estremamente diversi tra di loro. Non esiste una tipologia particolare, ma se si va dai bunker, per esempio, scavati durante la guerra, vero? Si va dai bunker della Seconda Guerra Mondiale di Trieste agli acquedotti etruschi, insomma, come arco temporale. Io sono affascinato dalle miniere toscane. Sì, le miniere, tutta la zona del Monte Amiata, della Maremma, è stata per alcuni secoli una terra mineraria in cui lavoravano migliaia di persone. Ovviamente, come è successo in tutte le miniere, quasi tutte le miniere europee, oramai sono state praticamente tutte chiuse perché non hanno retto alla concorrenza di paesi lontani dalla Russia, alla Cina. E tutte queste miniere ci si è domandati che cosa farci, se lasciarle crollare in silenzio al buio oppure farle vedere. E in alcuni casi, come succede a Massa Marittima, a Gavorrano, si è deciso di renderle accessibili al pubblico, il quale pubblico può fare dei giri molto belli, perché la miniera di San Silvestro a Campiglia Marittima è una miniera in cui si fa un viaggio in trenino che ti porta proprio nel cuore della montagna, nella pancia della montagna, e da lì vai a vedere dove la gente ha lavorato per centinaia di anni. Senti, c'è fra tutte le miniere, non solo, scusami, miniere, tutti i sotterranei che hai visitato per poi fare le fotografie del libro e raccontarne la storia, ce n'è una che ti ha così impressionato in modo particolare, ti è piaciuta, l'hai nel cuore? Beh, diciamo, dal punto di vista di chi come me per qualche strano motivo ama particolarmente tutto quello che è sotterraneo, dalle grotte alle catacombe, non so perché, non vorrei che uno psicanalista me lo spiegasse, francamente, il luogo più emozionante è sicuramente Napoli, perché Napoli ha veramente sotto di sé quello che si dice un'altra città, e questa è un'espressione che si usa in molti casi ma non è vera normalmente, cioè le città hanno dei sotterranei di vario tipo. Invece a Napoli c'è proprio un'enorme quantità di vuoti di dimensione impressionante. Ecco, in questo momento con Napoli, appunto, che ha i rifiuti che si vedono sopra, almeno sotto quelli non si vedono sicuramente. Io ti devo salutare purtroppo, Fabrizio, io ti ringrazio molto e grazie anche per questo libro che invito gli ascoltatori a scoprire, Viaggio nell'Italia sotterranea. Ciao, buona domenica. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Quando si parla di viaggi, veramente è un viaggio solo l'argomento, perché è infinito. Con Marco Montemagno così continuiamo a parlare di web, di quello che succede nella rete. Adesso tra poco cercheremo anche di, in qualche modo, di chiudere e di rispondere anche ad alcune vostre domande. Prima però Federica Brunini, che saluto. Ciao Federica, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori. Allora, finiamo con il manuale della viaggiatrice, nel senso il viaggiare al femminile, perché esistono anche esistono anche tante esploratrici, nell'Ottocento ce n'erano diverse, oggi bisogna saper viaggiare anche al femminile, ma perché è diverso viaggiare al femminile che al maschile? Federica. Ma è come dire in che cosa sono diversi uomini e donne, cioè sicuramente è proprio diverso. Siamo molto diversi, diciamo che insomma l'approccio femminile, lo sguardo femminile sul mondo è diverso da quello maschile, per fortuna, e questo fa sì che anche il nostro modo di viaggiare a volte possa essere diverso, anche ironicamente, penso soltanto al tempo che noi donne spendiamo in un mercatino o a fare shopping mentre siamo in viaggio, invece al tempo che voi passate nei pub o nei negozi di dischi, non lo so, insomma, quindi sono modalità di viaggio diverse. Federica, nel mio bagaglio a mano ci sono le mutande, sì, le calze, uno spazzolino da denti e credo basta. No, e poi il rasoio e il caricabatteria per tutto, perché adesso è tutto con la mini USB apposta per averne uno solo. E tu vuoi dirmi che sei un uomo 24 ore, insomma. Beh, no. Sai che io faccio questa equivalenza tra il bagaglio che un uomo porta e poi il suo carattere. Ma è più chi ha più, scusami, ma per viaggiare ormai non andiamo più, Marco, tu riesci ad andare via per più di un giorno per caso? No, io viaggio direttamente con la borsa forse il portatile o dentro le tue stesse cose, devo e basta dire. E il telefonino mi fa da portatile, ecco, certo, in quel senso. E invece tu, come donna, che cos'hai dentro? Cosa consigli di mettere nel bagaglio a mano, Federica? Beh, diciamo innanzitutto che per le donne fare il bagaglio è fare un viaggio nel proprio armadio, nella propria cabina, armadio se l'avete, nel senso che è sempre il momento più difficile, quello in cui chiamiamo e cominciamo a dire ma che cosa porto, se fa bello, se fa brutto, se piove, se fa freddo, insomma è veramente un delirio. Per questo io ho consigliato nel manuale della viaggiatrice di tenere questa cosiddetta checklist, cioè di fare, di scrivere quello che vogliamo portare, anche con dei modelli che si trovano online e che si possono scaricare, per essere sicure di non riempire troppo la valigia, perché poi alla fine ce la dobbiamo portare noi. C'è una, per esempio la cosiddetta pashmina, che è questa sciarpa che può fare da pareo, che può fare da coperta, che può fare da asciugamano, che può fare da turbante se c'è la tempesta di sabbia, e può fare ovviamente anche da come dico io, da tappeto rosso se dovessimo incontrare George Clooney in aereo, insomma. Ecco, quindi tu dici una cosa che vale per tutte, che non sia neanche troppo pesante. C'è invece un accessorio, qualcosa che le donne insistono a portare e che poi invece non usano mai? Ma che non usano mai non lo so, nel senso che sicuramente molti direbbero i tacchi, perché noi tendiamo a portarci la scarpa col tacco perché diciamo prima o poi la useremo, in realtà se poi vai in campeggio al massimo il tacco ti può servire per fare i buchi, per piantare i paletti della tenda, per cui ecco, magari starei un po' attenta al numero di calzature, al tipo di calzature che ci portiamo. Ecco, senti, invece la cosa alla quale stare più attente come donne quando si viaggia? Beh, sicuramente la sicurezza, sicuramente una donna è un bersaglio più facile quando viaggia, se viaggia soprattutto da sola, per cui stare molto attenti ai luoghi che si frequentano, quindi evitare certi orari e certi quartieri, evitare anche di essere particolarmente appariscenti, per cui no a gioielli che possono attirare l'attenzione, no anche a un abbigliamento che sicuramente può attrarre più sguardi, quindi direi che la sicurezza per quanto riguarda il viaggio al femminile è la prima preoccupazione. Ecco, grazie Federica Brugnini, il manuale della viaggiatrice, Morellini editore. Poi ti risentiremo in un'altra occasione perché le cose da raccontare sono moltissime, davvero. Grazie ancora Federica. Grazie Stefano. Buona domenica, ciao. Buona domenica anche a voi. Allora Marco Montagnano, per tornare con te e parliamo di viaggi, siccome arrivano anche le vostre domande, ad esempio Willy scrive su Facebook: se invio un messaggio personale a un amico può leggerlo chiunque, è registrato? No, ovviamente, no, perché i messaggi personali, certo, non possono essere letti, però si discuteva del fatto che ormai qualunque informazione si decida di mettere in rete sarà un'informazione comunque prima o poi visibile. Ma il fatto è questo, secondo me, che oggi la privacy, adesso non facciamo il pippone sulla privacy infinita, però il concetto è già la privacy nella vita reale. Io vi invito, non so, a chi viaggia in aeroporto, va a Londra, ti fanno l'analisi della retina, ti perquisiscono ovunque, New York, Stati Uniti non ne parliamo, telecamera circuito chiuso ovunque, 40 telecamere da casa mia all'ufficio, ma perché mi devono riprendere in continuazione? Quindi diciamo il concetto di privacy già è cambiato molto. Poi l'altro aspetto è che qualunque dato diventi digitale, cioè finisce su internet, ma anche pensiamo agli SMS, le telefonate, cioè tutto quello che rientra in questo mondo potenzialmente viene archiviato da qualche parte, e potenzialmente per un errore, per altri motivi può finire per essere pubblico. Quindi secondo me l'approccio corretto è sapere che in un mondo che va verso il digitale qualunque informazione che potenzialmente viene archiviata potrebbe diventare pubblica, quindi mi comporto di conseguenza. Se ho un'informazione che assolutamente non voglio che si sappia, probabilmente devo star lontano da qualunque tipo di tecnologia, che però è sempre più impossibile. Una volta era così coi segreti, no? Certo. Se avevi un segreto non devi dirlo comunque a nessuno, perché certo, nel momento in cui dici oh, sai mantenere un segreto, esatto, e già non lo è più. Allora, invece chiuderei con Social Media Week, nel senso che una settimana che avete portato a Milano, la porterete a Roma? Sì, cosa è successo? Diciamo sì, in anteprima. Prima saremo a Roma a febbraio, sono 90 eventi per divulgare l'opportunità della rete, è un festival della rete, diciamo, e dal 7 all'11 febbraio a Roma, già oggi è aperto un sito socialmediaweek.it dove si possono proporre eventi, iniziative, cose che le persone possono voler fare a Roma in quella settimana, in contemporanea in 10 città del mondo, e quindi è una bella occasione per parlare di tutte quelle che sono le chance, le potenzialità di internet. Ecco, come l'età ormai degli interessati alla rete? rete si sta sempre più ampliando. Per me è da 0 ai 100 anni. Ormai da tutti, sì. Insomma. Ecco, quindi c'è. Milano è andata bene? Milano 25.000 visitatori e devo dire è stato il primo caso in Italia di un festival così di successo legato a queste tematiche. E a Roma ci sono veramente molte aspettative. Poi arrivano ospiti stranieri, italiani, 250 ospiti ci sono stati a Milano. Insisto, è una manifestazione dove si può partecipare attivamente. Quindi si può candidare un proprio evento, una propria iniziativa, un posto. Gli eventi spaziano da eventi per i ragazzi per trovare lavoro agli anziani, quindi le persone che hanno vissuto di più, anziani poi un termine sempre così, e devo dire, o alle aziende, alle istituzioni, quindi c'è la possibilità di partecipare. Chi ha voglia già oggi va online, si candida e può far parte di questa avventura. L'Italia, anche se è arrivata più tardi, ha ancora un gap, cioè è ancora così distante dagli altri paesi europei, almeno diciamo insomma quelli più avanti da questo punto di vista, oppure no, ci siamo ripresi? Noi siamo indietro purtroppo, ancora. Siamo la cenerentola del web a livello mondiale. Se vai a parlare con gli americani dici guarda io faccio internet in Italia come un africano che faccia pattinaggio su ghiaccio, come percezione. Però noi oggi abbiamo una grande opportunità che è il mobile, cioè i telefonini. L'Italia è il siamo paese i primi, sì, ecco, al sì, mondo al con mondo, la più grande sì. penetrazione di smartphone, e abbiamo una cultura, abbiamo tre cellulari a testa, per cui internet sta andando sui telefonini sempre di più. Pensiamo che Google fa prima i propri programmi per i telefonini e poi per internet, e a questo punto abbiamo la chance di ricavalcare l'onda del web partendo dalla telefonia. Secondo te perché l'italiano così si è più appassionato all'oggetto telefonino? Io ho una teoria personale, vediamo la tua. Ma sentiamo. Il fatto, io collego molto il fatto che anche su Facebook siamo quelli che passano più tempo, sì. conversano di più, quindi noi abbiamo una cultura della conversazione, della socializzazione. Poi fa molto sexy avere, fa molto figo avere. Sei anche tu legato alle, pensi che l'italiano sia ancora legato alla propria immagine, quindi. Beh, senz'altro abbiamo sì. una cultura, è una cultura televisiva la nostra, quindi c'è una cultura dell'immagine molto forte, e il telefonino, pensando poi all'iPhone che ha trasformato anche un po' questo oggetto in un oggetto anche molto sexy, molto di culto, senz'altro ha una predisposizione sia alla conversazione che a quello che è la gestione dell'immagine. Insomma, noi italiani siamo fashion e chiacchieroni, questa è un po' fondamentalmente la chiave di tutto. Grazie Marco Montemagno. Grazie a voi. Per trovarti il tuo sito? Marco Montemagno, scrivetelo su Google, mi trovate. Ecco, esatto, primo oppure secondo? Dai, in genere combatto con Montemagno il paese ormai da 10 anni. Male che non è Castelmagno, sì. perché lì sarebbe stata più dura con il formaggio. Grazie ancora Marco Montemagno, noi continuiamo, tra pochissimo giochiamo con Smartbox, siamo pronti a regalarvi esperienze. 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Siamo pronti a giocare con Smartbox. Prima volevo così leggere il messaggio di Giuliana che dice: da quando è nato il mio bimbo Dario, che adesso ha 1 anno, il bagaglio della mamma si è ridotto a un'unghia per far spazio a pannolini, pagliaccetti e altro, con molta più gioia ovviamente. Io sono pronto a regalarvi emozioni, esperienze. Smartbox, esperienze da regalare. Conoscete Smartbox, che è il numero 1 in Italia nel mercato dei cofanetti in regalo, quindi se avete ancora i regali, ne avrete sicuramente da fare per Natale, potete scegliere un cofanetto Smartbox, ce ne sono veramente tantissime, ci sono 340 attività fra escursioni, attività avventurose e quant'altro, moltissime le possibilità, a partire da €29,90. Teresa da Roma, buongiorno! Buongiorno. Ciao Teresa, io qui oggi ho delle esperienze da regalare, io vorrei tanto regalartene una. Allora, io ti dico, puoi scegliere fra soggiorni e sapori, benessere, sport e svago e gourmet. Dimmi allora, una. Soggiorni e buon gusto. Dicevi. Soggiorni e sapori. E sapori. Allora, fuori porta con gusto. Soggiorno divino, soggiorno gustoso, atmosfere d'incanto. Cosa scegli? Qual è la tua esperienza? L'ultima, atmosfere d'incanto. Mi dispiace, però non posso regalartela. Te la farai regalare da qualcuno, sicuramente. Ciao Teresa, grazie. Ciao. Alessandro, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao Alessandro, gourmet, sport e svago, benessere, soggiorni e sapori, soggiorni. Cosa scegli? Benessere. Il benessere. Allora, gocce di bellezza, relax per due, spa e benessere, soggiorno e benessere. Relax per due. Relax per due, niente, mi dispiace, non posso, cioè te lo farei regalare anche quello. Ciao. Ciao. Un abbraccio, ciao. Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Ciao Raffaella, ricordo il numero 800240024, la vostra, il vostro desiderio, l'esperienza che desiderate deve essere fra quelle che io ho qui davanti. Allora, gourmet, sport e svago, benessere, soggiorni e sapore, soggiorni. No, benessere decisamente. Ancora benessere, gocce sì. di bellezza, relax per due, spa e benessere, soggiorno e benessere. Spa e benessere. Niente da fare, no. Ciao, mi dispiace Raffaella. 800240024, Antonio, la provincia di Brescia. Buongiorno. Antonio, dove andiamo? Cosa facciamo? Soggiorno. Bravo, allora, insolito fuori porta, soggiorno culturale, dimore di charme, due notti e una metà, ah, una meta, scusami, io subito pensavo all'altra parte. E soggiorno culturale. Soggiorno culturale, bravo! Ti sei portato a casa uno dei 110 soggiorni in hotel selezionati e che potrai fare sicuramente con qualcuno, perché vale per due persone con prima colazione. Bravo! Grazie. Grazie a te Antonio, ciao, buona domenica. Ciao. Vedi che il regalo di Natale è arrivato, andiamo avanti. Simona da Roma. Sì, ciao, buongiorno. Ciao Simona. Allora, i soggiorni basta, le abbiamo regalato. 800 24 00 24. E gourmet, sport e svago, benessere, soggiorni e sapori. Sport e svago. Ci siamo. Allora, devi scegliere fra a tutto svago, pausa avventura, energy fitness, adrenalina e motori accesi. È il primo, a tutto svago. Simona, no, no. Ti faccio riprovare. Ah. Allora, non è a tutto svago. Pausa avventura, energy fitness, adrenalina, motori accesi. Adrenalina, motori accesi. Vabbè, niente, non ce la posso fare, mi dispiace. Niente, Simona, vabbè. Ciao, ciao, ciao. Diego da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Diego, cosa scegli? Cosa scegli come esperienza? Benessere. Benessere, no, lasciamo perdere benessere, te lo dico subito. Schiamo o trasporto e svago e gourmet? Svago. Sport e svago, allora, pausa avventura, energy fitness, adrenalina, motori accesi. Cosa scegli? Energy fitness. Energy fitness, oh là. Avrai 200 attività fra le quali scegliere e, okay. e avrai un'esperienza fitness tutta per te da regalarti. Ok, grazie mille. E niente, poi verrai contattato sicuramente. 800 24 00 24, ho ancora una Smartbox da regalarvi. Giovanni da Lecce. Ciao Giovanni. Sì, buongiorno. Beh, puoi spegnere la radio per cortesia? Spengo la radio, benissimo. Grazie. Buongiorno. Allora Giovanni, gourmet e soggiorni e sapori, cosa scegli? Soggiorni e sapori. Hai scelto gourmet, vero? Ho sentito che hai scelto gourmet, vero? No, gourmet. Bravo. Allora puoi scegliere fra degustazioni, sapori dal mondo, la grande cucina italiana. Guarda che dopo c'è Davide Paolini, quindi scegli. Degustazioni. Ripeto, degustazioni, sapori dal mondo, la grande cucina italiana, quindi scegli... La grande cucina italiana. Ma dai. Ero un po' sordo oggi, non sentivo tanto bene. Hai una cena... sono in auto. Infatti, sai, colpa mia, ovviamente. È una cena per due persone in uno degli 80 ristoranti selezionati in tutta Italia per farti una cena da sogno con qualcuno. Hai qualcuno da portare? Sì, sì, certo, mia moglie. Allora siamo a posto. Grazie, ciao. Grazie, buongiorno. E grazie a Smartbox ovviamente, tutte le informazioni potete anche acquistare gli Smartbox direttamente sul sito www.smartbox.it. Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei già... Cosa farai? C'è per Natale? Cosa succede? Ti stai già muovendo? La tua cena la preparerai tu? Andrai a fare il cenone? Cosa succede in questo periodo dell'anno? Sicuramente, no, sicuramente non la preparerei io, perché mi piace molto mangiare, ma molto poco cucinare, specialmente per molte persone. Quindi sicuramente ancora non ho ben idea dove andrò. Forse andrò da mia madre a Forlì, probabilmente, per il giorno di Natale. L'ultimo dell'anno è tutto interrogativo. Comunque ti assicuro che il 18 e 19 dicembre sarò a Matera, al Matera Wine Festival, perché in questa splendida città, sicuramente nei Sassi e in posti tipo Piazza San Francesco, la Chiesa del Purgatorio e Palazzo Bernardini, ci sarà una grande manifestazione sui vini e prodotti della Basilicata, che io amo molto. E poi è un modo per così vedere questa città splendida e questi luoghi così un po' fuori del normale. Guarda, mi dai la possibilità, anche prima abbiamo avuto come ospite Fabrizio Ardito, che ha scritto questo bel volume Viaggio nell'Italia sotterranea, e Matera offre anche una Matera da vedere sottoterra proprio, quindi è da visitare non sopra ma anche sotto, per cui sicuramente c'è molto. Sembra di andare in cantina, insomma, quindi sicuramente è molto azzeccato parlare di vino nei Sassi, perché si ha proprio l'impressione di andare sotto, di andare a visitare le cantine. Quindi credo che, cioè, in questi casi veramente il cibo e il luogo siano fantastici, proprio in previsione della settimana dopo del Natale e delle feste. Quindi credo che sia una manifestazione azzeccata in un momento azzeccato, e quindi sicuramente sarà interessante fare le degustazioni di questi vini, che tra l'altro di una terra che è poco considerata, poco conosciuta dal punto di vista enologico e gastronomico. Se tu ci fai caso, non se ne parla quasi mai della cucina, diciamo, della Basilicata, dei luoghi della Basilicata, dei ristoranti della Basilicata, dei vini della Basilicata, un po' molto trascurata. È vero, è verissimo, e quindi questa è un'occasione per recuperare anche quello e per parlarne, ovviamente. Davide, siccome a Natale molti regaleranno delle bottiglie di vino, tu dov'è che, qual è il tuo consiglio per non cadere, diciamo così, negli errori? Ma guarda, diciamo che a Natale, l'ultimo dell'anno, le cene e i pranzi sono molto robusti. Sì, diciamo che nel sud l'ultimo dell'anno c'è il capitone, mentre al nord sicuramente c'è il cotechino, però sono cene prevalentemente da rossi, anche se l'inizio e il finale sono ovviamente bollicine. Quindi io direi che in questi casi vale la pena di comprare pochi vini, però dei grandi vini, dei grandi rossi e delle grandi bollicine. Io qui non voglio far distinzione tra Italia e Francia, perché c'è chi preferisce le bollicine francesi, certo, e qui quelle italiane. Sul fine pasto sicuramente io sono per il moscato, perché non c'è altro paese che offra così un vino così allegro e così semplice di approccio da poter accostare ai dessert, ai panettoni, ai vari dolci delle varie regioni. Però ecco, io direi che bollicine, oppure bollicine a tutto pasto. Io sono anche, diciamo, di quella scuola che dice che col cotechino sono straordinarie le bollicine, e quindi sicuramente possono essere a tutto pasto, partendo da un antipasto che di solito sono molto più leggeri, sono a base di pesce. In questo periodo sicuramente nelle tavole italiane gira il pesce iniziale, così come antipasto, oppure anche gli stessi salumi in un'altra parte d'Italia, e quindi le bollicine vanno bene per l'uno o per l'altro. Io credo che sia il vino che può dividere sicuramente, a meno che non si presenti a tavola, che ne so, un filetto al Barolo o altre cose di questo genere. È evidente questo, che in questi casi, insomma, meglio usare dei grandi vini rossi. Però io sarei per poche bottiglie, però di grande qualità, un grande rosso e una grande bollicina. Ecco, quindi se volete portare appunto una bottiglia come regalo, nel caso doveste andare a cena da qualcuno, sapete che cosa fare. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. A domenica. Buona domenica, grazie. Tra pochissimo il mistero da risolvere in 24 minuti. Il riposo del guerriero. C'è 33 minuti, sono pronto a farvi avere 1.000 euro da spendere sulla feltrinelli.it. Un mistero in 24 minuti. Certo, 1.000 euro se riuscite a risolvere questo mistero, altrimenti niente da fare. Poi più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Speriamo di riuscire a darvi 1.000 euro, chi lo sa. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio del passato, del presente o di fantasia, purché ovviamente famoso. E il primo indizio di questa settimana arriva da Celentano. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù e non viene su, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì è un albero di 30 piani. Eccoci qua, questo è il primo indizio. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Stefano. Allora, senti? Ti sento benissimo. Un albero di 30 piani, Celentano, te la ricordi sta canzone? Beh, non c'ero, ma la so perché è molto bella. Mi piace il bom. Forse non c'ero neanch'io. Vabbè, però ci siamo adesso che ci sono gli alberi di 30 piani, ci sono e come. Anche di più, ormai arriviamo ai 100. Allora. Anche di più. Dunque, io ho avuto un flash questa settimana perché la notizia mi era piaciuta. Sì. E quando a San Pietroburgo hanno detto niet, no, non si fa questo grattacielo della Gazprom, perché dovevano costruirlo, non so, qualche anno fa avevano deciso di farlo, invece gli hanno detto niente da fare. Allora ho detto 30 piani, grattacielo, albero, città, e ho detto il rifiuto insomma della costruzione di questo mostro. Ilaria, sei stata bravissima. Io non so dirti se sei tu quella che porterà a casa i 1000 euro o meno, però complimenti per la risposta. Bene. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a te, ciao. Come sapete, la risposta la scopriremo solo al 24esimo minuto. Alba da Milano, buongiorno. No, ho sbagliato, scusami. No, sì, Giuliano da Cremona, perdonami. Giuliano. Pronto. Ciao Giuliano, scusami, buongiorno. Ti avevo saltato. No, vabbè. Allora, Giuliano, cosa vuoi fare? Ma io provo a dare la risposta. Anche tu, rimaniamo a 1000 euro allora, dimmi tutto. Sì. La conferenza dell'ONU sul clima che si è tenuta a Cancun questa settimana. Alla fine qualcosa è venuto fuori, visto? Meno male, speriamo in bene. Tu cosa pensi per questo pianeta? Cosa succederà? Ci inghiottirà tutti a un certo punto. Nel 2012 ci inghiotterà, cosa succederà? No, questo no, non penso proprio. Ma ci sarai ancora quando ci inghiottirà oppure non ci sarai più, secondo te? Ma io spero che ci inghiottisca il più tardi possibile, per cui che non ci sarò già più. Ah, ecco, quindi va bene, non vuoi vivere quell'esperienza, diciamo. No. Ecco, grazie, ciao Giuliano. Cerchiamo invece di fare qualcosa perché questo non accada, ovviamente. Alba, eccoci. Sì. Ciao Alba, buongiorno. Buongiorno. Ma io adesso che ho sentito le altre due risposte, la mia sembra troppo facile, troppo semplice. Comunque ve la dico lo stesso. Rimani comunque 1000 euro, non vuoi un altro indizio? No. No, va bene. Alba. Pensavo all'albero di Natale che hanno installato nel Duomo, al Duomo, in piazza del Duomo, che è il più alto del Duomo, il più alto di New York, di Londra, il più alto di tutti, insomma. Chi lo sa, poi questa è sempre una guerra fra le altezze degli alberi, perché comunque è vero, è veramente altissimo, non so se l'avete visto, ma è gigantesco. Non so quanto sia alto, onestamente, però è veramente il più alto che abbia mai visto in questa città. Grazie Alba, ciao, buona giornata. Ciao. A parte il cuore che è caduto... Madonna, poverina. Allora, Rosy, dalla provincia di Firenze, ha ceduto purtroppo una delle luminarie sotto la galleria Vittorio Emanuele. Allora, Rosy, sì, buongiorno, cosa vuoi fare? Anch'io provo a dare subito la risposta. Anche tu per 1000 euro. Come sì. Sempre siete tutti d'accordo. O non chiedete mai indizi oppure ne chiedete in continuazione. Vai, Rosy. Io sono rimasta colpita soprattutto dal numero che compare nella canzone. Vorrei dire i 30 anni passati dalla morte di John Lennon. Grazie, Rosy. Ma tu hai sentito la trasmissione la settimana scorsa? Forse qualcosa, non tutta intera. Perché vabbè, dopo ti... Ah, era già allora, forse. No, visto che hai dato questa risposta, perché l'avevano data e io ho detto hai anticipato quella che sarebbe stata la risposta di settimana prossima e quindi non lo era più, però brava Rosy, grazie, ce l'hai fatto ricordare, mi dispiace, ciao. Va bene, grazie, ciao, ciao, buona giornata. Davide, buongiorno. Ciao Stefano. Ciao Davide, allora cosa vuoi fare? Io invece l'ho sentita la puntata di settimana scorsa e quindi avevo escluso il trentennio di John Lennon. Bene. Un altro indizio? No. Direi di sì. Di dai. Sì. Allora, scendiamo a 500 euro. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Allora Davide, questa è una canzone famosissima di Lucio Dalla, si intitola Caruso, la conoscerai perfettamente, l'hanno cantata in milioni di modi diversi. Sì. Però il mio preferito resta questo, cioè quello originale di Dalla. Allora, Davide, che cosa o chi potrebbe essere? Mi sono autospiazzato chiedendo l'indizio. Vabbè, tanto non è cambiato niente, perché una risposta sbagliata prima è se... Perché la cosa che avevi in mente non ha niente a che fare con questo indizio? Apparentemente no. Però essendo in alto mare, lì dove il mare luccica, E quindi? Alto mare per alto mare, do una delle risposte che avevo in mente. Vai Davide! Non c'entra assolutamente niente, però mi ricordo che nella settimana passata è scaduto, cioè sono passati 30 anni ancora, da quando sono state messe in commercio, mi sembra, quelle gelatine a forma di orso che tutti abbiamo mangiato come caramelle. Sì, so anche la marca, ma non la posso dire. Grazie però. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Dov'è che l'ha pescata questa notizia? Adesso vado a cercarla. Allora, l'albero di Milano è alto 48 metri, vale a dire più o meno 16 piani, quindi in effetti direi molto alto. Non come i 30 dell'albero di Celentano, però insomma ci avviciniamo. Gli aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo. 800 24 00 24. Strade in diretta. Ben trovati, la nebbia riduce la visibilità sul tratto appenninico dell'autosole tra Roncobilaccio e Barberino del Mugello. Prudenza per il vento forte sulla A25 Roma-Pescara, tra Sulmona e Pescara. In Calabria si rallenta sulla statale 18 Tirrenia Inferiore dopo un incidente avvenuto nei pressi di Vivo Valentia in direzione nord. Attenzione ai mezzi spargisale in movimento sulla diramazione Gallarate-Gattico della 8 tra Besnate e Sesto Calende. A chi viaggia in treno ricordiamo che fino alle ore 12 la circolazione dei treni è sospesa sulla linea ferroviaria Milano-Venezia a causa delle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Cassano d'Adda. Infine una segnalazione dalla città di Milano. Ci sono disagi per un incidente tra Viale Certosa e via Cefalonia. Con questo è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. I temi della sostenibilità e della responsabilità di impresa stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, sia nelle grandi aziende, sia in quelle piccole e medie, e gli scenari globali impongono una visione che non punti solo a risultati economici. Il rispetto per l'ambiente, le persone, le comunità locali e la società sono sempre più parte integrante delle strategie delle imprese in grado di favorire il loro sviluppo economico. DNV, Fondazione Internazionale Indipendente, tra i principali enti di certificazione, supporta le imprese nella gestione e prevenzione dei rischi, accompagnandoli in una crescita sostenibile nel pieno rispetto delle esigenze sociali e ambientali. Per saperne di più, www.dmv.it. Un mistero in 24 minuti. Giuseppe da Monza, ciao, buona domenica. buona domenica, ciao. Allora Giuseppe, due indizi li abbiamo scoperti. Siamo ancora a 500 euro da spendere sulla feltrinelli.it. Quindi libri, CD, DVD, videogames e tante altre cose. Cosa vuoi fare? Ma sono molto tentato perché non avevo una bella risposta. Poi mi hanno spiazzato col secondo indizio. Chiedo un terzo indizio. Oh, bravo, facciamo così. Andiamo a 300 euro, ma vedrai come ti spalancherà la mente questo terzo indizio. Bravo. Quelle stradelle che tu mi fai far, cara Rosina, la devi pagar. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni ti voglio sapere, ogni ti voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni ti voglio sapere chi viene. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Che canzone che ti ho trovato, come terzo indizio, Giuseppe. È grandioso, non credo veramente. Gigliola come? Cinquetti, Va bene, ora proviamo quello che avevo in mente all'inizio. La presentazione del calendario Pirelli, del 2011, naturalmente. Hai vinto 300 euro, ma due settimane fa. Non ho sentito. O la settimana scorsa, non mi ricordo. È stata una risposta, la settimana scorsa, credo. Era la soluzione del mistero settimana scorsa. Mamma mia. Giuseppe, cosa facciamo qua? Cosa facciamo? Riproveremo. Bravo, grazie, ciao Giuseppe, ciao. Alberto dalla provincia di Modena. Buongiorno. Ciao Alberto, allora. Dunque, io tentavo di dare una risposta, anche se ho qualche dubbio, a un fatto di cronaca che è avvenuto, penso, alla Spezia, di quell'agente del Polstrada investito da un albero, se non ricordo male. Sei stato bravo a mettere insieme gli indizi, Alberto. Chissà, scopriremo al 24esimo minuto della soluzione. Grazie. Va bene, grazie. Ciao, Linda da Varese. Linda. Pronto? Eccoci qua, Linda. Sì. Buongiorno. Gli indizi mi hanno completamente confuso. E infatti avevo servono per questo. All'inizio, che era il summit di... Ecco, e adesso... brancolo nel buio. Ma tu non usi la rete, sai che tanti mettono insieme i titoli delle canzoni in un motore di ricerca e cercano le notizie che hanno quelle parole lì all'interno per trovare la soluzione. Ma io con il computer sono una capra, so solo telefonare a mio figlio con Skype. Vabbè, è già molto, sai, no. Io credo che mia madre solo la parola Skype la confonde con scarpe e non sa neanche da che parte inizia. Se una scritta in inglese sono completamente morta. Fa niente, tu chiudi tutto, di sempre, esatto. No, e chiudi tutto. È così, devi dire no e chiudi tutto. Non preoccuparti, così funziona così. Mai di accettare, non devi mai accettare nulla. Da internet è come gli sconosciuti, non dovete mai accettare. C'è qui Marco Montemagno che è andato via, che ride come un matto, perché è vero, no? Da internet è come gli sconosciuti. Allora, ascolta, gli indizi sono finiti. No, che sono finiti? Io ne ho ancora una valanga qua. Ecco, allora chiediamo un altro indizio. Un quarto perso indizio. Ma brava, andiamo a 200 euro. Allora, senti che bella canzone. La canta Samuele Bersani, i testi sono suoi, ma la musica è di Sakamoto. Che sbaglio sarà la vita così con te, perché capisco che ti perdo, riconosco il verbo e so che dolore dà. Linda, questa è una canzone scritta da Ryuichi Sakamoto, si intitola Tango, ma in realtà la versione italiana con il testo di Samuele Bersani, che è stato scritto per Ornella Vanoni, è Isola. Quindi Isola. Questo sarà un indizio sicuramente forte. Sì, e infatti lo è. E infatti lo è. Linda, cosa è successo? E niente, mi lamentavo con me stessa per non esserci arrivata. Niente, non mi viene in mente niente. Linda, io ti devo dare un bacio, ti ringrazio. Ma come sei carino. Ringrazio io voi e buona giornata. Anche a te, buona domenica. Ciao, ciao, grazie, ciao. Anna, dalla provincia di Siena. Sì, buongiorno. Facciamola Anna. Allora, non ho tempo per farti ascoltare un altro indizio, però i quattro indizi che abbiamo scoperto li abbiamo. Vuoi dare una risposta? È stata una grande confusione. Comunque all'inizio ho sentito un cacciavite, un viaggio, avevo pensato a Renzi, rottamatore, che era andato ad Arcole, però mi rendo conto che... Ah certo, il sindaco di Firenze, così criticato. E lì hanno usato Facebook e come anche. Grazie, grazie Anna, mi dispiace, niente da fare. Ciao, buona domenica, ciao. La soluzione arriva subito, è questa, siamo a Capri, ecco perché Isola. E poi Caruso, ovviamente nato a Napoli, e quindi Capri è lì. Allora, Mari Cavellino, 30 anni, ecco il primo indizio. Un albero di 30 piani, il numero 30, 30 anni, è stata nominata comandante dei vigili urbani con moltissime polemiche perché vogliono ricorrere al TAR, perché dicono che è una nomina ingiusta, e questo ha fatto molto discutere e ha continuato a farlo fra l'altro. Ed ecco qui il terzo indizio, e qui comando io, visto che di una donna si trattava, comandante dei vigili urbani. Quindi il terzo e il quarto indizio avrebbero dovuto aiutarvi veramente tanto. Non è andata bene, speriamo che vada meglio la settimana prossima. Grazie alla Feltrinelli .it, torneremo ovviamente con il mistero in 24 minuti, ripartendo da 1.000 euro. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Margherita Ina, Peter Bescapè in regia. Grazie a voi, buona domenica da Stefano Gallarini, ci sentiamo domenica prossima alle 10.